A pane, burro, rock and roll. Sono le 8. Abbiamo un orologio crepuscolare che ci ricorda che ore sono ogni mattina. Ciao, nuovo ascoltatore. Ciao, nuova ascoltatrice. C'è una giornata splendida che ti affetta là fuori. I lampioni si sono già spenti. Questo vuol dire che il sole sta salendo anche quest'oggi. E noi di Rock FM, anche questa mattina, parlo così perché sono quelli che si stanno appena svegliando, No, dico agli altri che erano già svegli prima, tranquilli. Dicevo, per voi, anche questa mattina, ci tuffiamo in un grande musical, nel musical della vita. Sciogliete i vostri capelli, vecchi fricchettoni all'ascolto. Anche quest'oggi, se Spadino vuole, ci svegliamo con Good Morning Sunshine. Bisogna impararla a memoria, ragazzi, entro il 30 settembre. Vi voglio che la cantate tutti. Manco amici di Maria De Filippi, ok? Vi voglio precisi, anche col balletto. Vai. Good morning. The earth says hello. Hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. You lead us. No, sono ancora rapito. Va bene, ci terrà compagnia da oggi fino a venerdì. E chi lo... Oh, a me piace così tanto che in realtà la terrei fino al 30. Allora, vi stiamo parlando più e più volte di questo 30 settembre. È una domenica. L'occasione è un concerto degli Schiantos che si terrà a Cascina Mollue. E quindi ne approfittavamo per fare il primo test attitudinale collettivo che permetterà ai primi fortunati rocker di possedere la loro patente davvero rocker, tanto millantata in 90 puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, voi segnatevi il 30 settembre e vedremo. Già che ci sono, a proposito di serate, permettetemi di ricordare agli amici toscani che questo venerdì inauguro un nuovo locale dalle vostre parti. Fatemi vedere il volantino che mi è arrivato quest'oggi fresco fresco, dal quale scopro tra l'altro che suonerò in compagnia di Dome la Muerte. Caspita, è un piacere suonare con Dome, tra l'altro è la prima volta che metto i dischi con lui, quindi sono anche un po' emozionato. Questo venerdì il locale si chiama Charlotte, a Colle Salvetti. Suoneranno dal vivo tra l'altro i Goodfellas, che ti sciacqui la bocca, e appunto in console io e Dome la Muerte, presso Villa del Colle, via Milano 31, Colle Salvetti, in provincia di Livorno. Grazie agli amici del Cage che mi hanno invitato, quindi Charlotte, questo venerdì, grande inaugurazione, si spacca tutto, io e Dome la Muerte. Proseguiamo con il buon rock and roll. È un po' di giorni che non facciamo ritardatario ritardato, Freak, lo si fa oggi? Dice di sì. Una bella botta di vita dopo Air, Joy Division. Na na na na na na na na. Love, tear us apart. Benvenuti a Rock FM, una radio oscura. When routine bites hard, and ambition to low, and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads, then love will tear us apart again. Far Again, la mastodontica formazione che era i Joy Division. 8 e 9 minuti primi, dodicesima puntata di Pane e Burro Rock and Roll, almeno della ripresa, oppure novantesima dall'inizio delle trasmissioni. La puntata di oggi mi sta crollando sulle spalle, troppi messaggi, troppe le cose da fare. E poi non facciamo in tempo a far niente, da veri cialtroni. 335-100-7777. Mentre dicevo, è qualche giorno che non offriamo il servizio da parte dei radioascoltatori, dalla parte dei radioascoltatori, per tutti coloro che a quest'ora scoprono di essere in ritardo. Roberto Fricantoni ha una scusa fresca fresca di giornata. Tranquilli, siete in una botte di ferro, seguite cosa dice Frick e riditelo, mi raccomando, con la stessa intenzione, altrimenti va tutto a carte 48. Si dice carte 48, me lo sono indovinato. Si dice. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni, Roberto Fricantoni. Come esternarle, dottore, signor direttore, come esternarle? Certo è gravissimo, io non mi sono presentato per ben 2 giorni al lavoro, ma vede, io non sono abituato ai sonniferi e quello che è successo, incredibile ma vero, direttore, è che per sbaglio io ho ingurgitato, ho ingoiato dei sonniferi e non c'è altra spiegazione. Vede, io sono pazzo di caramelline alla liquirizia, Ziguli, forse le conosce, ecco. E la mia fidanzata per errore ha lasciato i suoi sedativi sul comodino. Io ne ho presi 40 ed ecco perché mi presento solo oggi. Ah, lei dice dopo 3 giorni. Infatti, mi deve scusare, io non sono abituato. Comunque le assicuro che non accadrà mai più che io confonda le liquirizie con i sonniferi. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. E comunque, mi scusi ancora tantissimo, non mi sono ancora del tutto ripreso, non sono ancora del tutto sveglio. Giornata, ovviamente non possiamo esimerci dal ricordare uno delle colonne portanti della storia del rock, un artista legato a doppio nodo alla data nella quale vi stiamo parlando quest'oggi. Era il 18 settembre del 1970, un infausto 18 settembre del 1970, quando Jimi Hendrix fu trovato privo di sensi nel letto di una camera al numero 22 di Lansdowne Crescent a Londra. Sì, in effetti sì, questa è una notizia che riguarda lo specifico di pane, burro e rock and roll qui sulle frequenze di Rock FM. Si parla sempre di musica, che è il cuore, il centro pulsante, il sancta sanctorum della trasmissione. E non potevamo dimenticarci della scomparsa del più grande chitarrista mancino della storia. Forse però non tutti sanno che fu... Ma forse non tutti sanno che mi piace. Ma forse è un ottimo non inizio. Tutti sanno che il buon Hendrix venne dichiarato all'epoca stroncato da un soffocamento dovuto al suo stesso vomito, provocato da un'overdose di barbiturici. In realtà abbiamo scoperto, caro Frick, che intervistato dal The Times nel 1993, il dottore Bannister, il medico che tentò vanamente di salvare il chitarrista, dichiarò che Hendrix morì non a causa dei barbiturici, ma fu invece soffocato da una grande quantità di vino rosso che gli venne letteralmente versato in gola mentre si trovava in stato di incoscienza. E quindi non si è mai indagato a fondo sull'episodio, in quanto si dipinse subito Hendrix come un eroinomane e poi sulla vicenda calò il sipario, ma si dovrebbe insomma riaprire questa brutta faccenda legata al buon Hendrix. Ma sì, ci si dovrebbe vedere chiaro, far luce, perché in effetti Hendrix è stato un chitarrista, un artista rock assolutamente fondamentale. Pensi che si chiuse quel 18 settembre del 1970, ahimè, la breve carriera di questo grande artista, che in pochi anni ha fatto tantissimo come caratteristica dei grandi protagonisti della cultura internazionale. Il suo corpo è sepolto nel Greenwood Memorial Park di Renton, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. Qui a Pane, Burro, Rock and Roll non potevamo non ricordare Jimi Hendrix. Il grande Jimi. Heartbreaker, Foxy, yeah, and you know you're a sweet little lovemaker, Foxy. I wanna take you home, yeah. I won't do you no harm, no. You got to be all man, all man. Foxy lady, yeah. Foxy, Foxy. Now I see you. I'm down on the scene. Oh, Foxy, you make me wanna get up and scream. Oh, baby, listen now. I made up my mind. I'm tired of wasting all my precious time. You got to be all man, all man. Foxy lady. Here I come. Lady, I come and I get ya. Come and I get ya. Foxy, Che roba, Foxy Lady, I'm coming to get ya. Mr. Jimi Hendrix, per ricordarlo, purtroppo, in questo 18 di settembre che prosegue, mattina che continua a crescere, 8 e 21 minuti primi. Era doveroso il saluto a Jimi Hendrix. Allora, mi piace questo messaggio che arriva da Firenze e riguarda la patente da vero rocker. L'amico commenta: ho la sensazione che la distribuzione della patente da vero rocker verrà effettuata in contemporanea con l'uscita dell'album dei Guns N' Roses, Chinese Democracy, gruppo d'ascolto di quelli con la palla di vetro. Caro amico fiorentino, tu sottovaluti la capacità di utilizzo del mezzo radiofonico di Pane, Burro e Rock'n'Roll, che fa un po' hai capito? Facciamo un po' gli scemini dicendo forse, chi lo sa, per creare aspettativa, e tu ci sei cascato in pieno. Intanto io, no, vabbè, questo riguardante ovviamente in teoria la prima distribuzione delle patenti da vero rocker, che avverrà, ormai l'abbiamo detto ufficiale, 30 settembre, Cascina Molue, Milano. Vi avviso che non le regaleremo così, questa è una cosa che abbiamo deciso da sempre. Le consegneremo solo a chi compilerà il test attitudinale che gli verrà consegnato in serata. Posso tranquillizzarvi che i test attitudinali che verranno proposti, ogni volta differenti, saranno comunque test attitudinali già andati in onda in radio. Questo vuol dire che se ascoltate la trasmissione, il più delle risposte le avete già sentite. Ok? Quindi anche quest'oggi, tra pochi minuti, il test attitudinale, ascoltatelo, che se il 30 settembre ci sarà la domanda che poniamo quest'oggi, voi saprete già la risposta. E state in una botte di ferro, vi pigliate la vostra patente da vero rocker, andate in giro, la fate vedere, trick e track, mortaretti e via che va. Dovevo fare l'appuntamento napoletano anche quest'oggi, ma non... Gianfranco, ci provo dopo, nella prossima mezz'ora. Intanto si prosegue con gli yes, sì sì sì, con gli yes, yes sì sì, yes. Appuntamento con l'otto. Dai Carlo, scrivimi il numero di telefono che facciamo l'appuntamento con l'otto. Dai su, non fare il timido. Feel the sun. E ogni giorno, grazie all'appuntamento apice, vertice, sancta sanctorum, e le ruberò le parole di bocca a maestro Fricantoni, che andiamo ad occuparci del test attitudinale, occasione più unica che rara per scoprirne ogni giorno un pezzettino di più della storia, della grande storia del rock. Ma perché, se adesso si materializzasse, sì, se comparisse all'improvviso, sì, un radioascoltatore o una, sì, radioascoltatrice, eccolo qua, so che lei la preferirebbe, sì, un po', sì, media, radioascoltatrice, e dicesse, sì, ma perché, le chiedesse, sì, ma perché io devo ascoltare il test attitudinale? Per scoprire, lei, per imparare. Cosa risponde? Per imparare. Ma non solo, no, dica la verità. Per conoscere Ariel di persona. Sì, questo può essere, ma è comunque una motivazione minore. Lo so, per farsi autografare Chinotto degli Schianto. Questo già più probabile, lo so dove vuole arrivare, ai punti della patente da vero rock. Esatto, era lì che volevo che andare a parlare. Giocolieri della parola che siamo, che funamboli del verbo. Quest'oggi ne scopriamo un'altra di quelle belle, chissà in quanti di voi lo sapevano, una curiosità riguardante Angie. Esatto, gliela posso scippare? Deve, forse è più adatta alla sua età, all'epoca freak. Sì. Ecco, infatti tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, certo, ricorderanno la meravigliosa, dolcissima Angie. Na. Più o meno. Celebre ballad dei Rolling Stones, contenuta nell'album del 1973 Goat's Head Up, sì, la zuppa di testa di capro, il periodo satanico dei Rolling Stones. Oh. Ma quanti di voi sanno a chi era dedicata in realtà la canzone omonima, e cioè Angie? Posso dare tre possibili risposte? Deve. Per restringere il campo, soluzione numero uno: Angie era il cocker di proprietà di Mick Jagger, morto di vecchiaia pochi mesi prima dell'incisione della canzone. Ah, stranezza, mi sembra un po' strana, però non potrebbe aiuti, essere. Non aiuti. Potrebbe soluzione essere. Numero due: Anita Pallenberg, compagna di origini italiane del chitarrista Keith Richard, è la plausibile Angie della canzone. Anita, ma Angie. Anita però un po' distante, chi lo sa, chi lo sa. Passiamo alla soluzione numero 3, la canzone Angie è ispirata ad Angela Bowie, moglie del buon David Bowie ovviamente, e indirettamente riferita ad un'orgia a quattro fra lei. Sentite qui, David Bowie, Mick Jagger e l'allora moglie Bianca Perez Moreno de Machas. Birbanti. Monelli. Monelloni. Quale di queste tre soluzioni è quella giusta? Naturalmente vi lasciamo riflettere, vi lasciamo pensare, perché Tocca a me. Perché? La soluzione a dopo ve la diciamo tra poco. Molto giusto.